Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Kiev ha lanciato un'offensiva nell'est dell'Ucraina, ci sono due vittime, forse elicotteri abbattuti nella zona di Sloviansk, saltati gli accordi di Ginevra, dice Putin. Immancabile la polemica del giorno dopo sul concerto del 1° maggio, questa volta tocca a Piero Pelù che attacca Renzi e molti ricordano che fu proprio l'attuale premier a togliergli l'incarico di direttore dell'Estate Fiorentina. Per le piogge allerta in gran parte del nord Italia, allagamenti in provincia di Padova, valanga in Marmolada, 4 persone estratte vive. Farmaci antitumore contraffatti, l'agenzia del farmaco lancia l'allarme, dietro dice c'è la camorra. A 6 mesi dal rogo di Prato, nel quale morirono 7 lavoratori cinesi, più controlli, ma poco sembra cambiato. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Vi trasmettiamo oggi da Perugia, dove si sta svolgendo il Festival Internazionale del Giornalismo, nella sua edizione naturalmente 2014. Se volete, se ci volete venire a trovare nell'arco dell'ora della nostra trasmissione, ci troviamo all'interno dell'Hotel Brufani, nella Sala Bella Vista. Se volete invece commentare da fuori, come sempre, è il 349-238-6666 per gli sms, oppure il mio account Twitter Simone Spezia. Iniziamo dunque dall'estero e dalla situazione in Ucraina, che torna ad essere estremamente tesa con nuove violenze e nuovi scontri. Per un punto, Maria Luisa Pezzali, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Quello ucraino è sempre di più uno scenario di guerra. All'alba l'esercito di Kiev ha lanciato l'offensiva nell'est filorusso, primo obiettivo la roccaforte separatista Slavyansk, la città sfuggita ormai da tempo al controllo delle autorità ucraine, la città dove è trattenuto da una settimana il team di osservatori dell'OSCE. Nel blitz sono stati utilizzati mezzi blindati ed elicotteri, 2 dei quali sono stati abbattuti dai filorussi, 2 piloti uccisi, altri feriti, ha confermato anche Kiev. Un morto e un ferito si registrano anche tra le fila dei secessionisti. L'esercito ucraino ha preso il controllo di 9 checkpoint dei filorussi. Questi sostengono che non viene consentito a donne e bambini di abbandonare la città. Un altro attacco è stato lanciato anche alla vicina città di Kramatorsk e intanto si è appreso che a Donetsk i separatisti filorussi si sono impossessati del centro di controllo per la rete ferroviaria. Dura la reazione di Mosca, che definisce l'intervento del governo ucraino un atto criminale, un'operazione punitiva che distrugge le ultime speranze per l'attuazione degli accordi di Ginevra. All'applicazione di questi accordi invece il più presto possibile si appella l'Unione Europea, che sottolinea bisogna fare di tutto per evitare un'escalation. 5 navi di paesi NATO sono arrivate intanto nel porto lituano di Klaipeda, è il segnale di come l'Alleanza Atlantica cerchi di rassicurare le repubbliche baltiche, preoccupate ovviamente dalla crescente tensione in Ucraina, e anche una misura di deterrenza contro la Russia, che al confine con l'Ucraina, lo ricordiamo, ha ammassato migliaia di uomini. Questo è il punto della situazione fino a questo momento. A te Simone. Grazie Maria Luisa Pezzali, poi torneremo a commentare più avanti la situazione in Ucraina per capire anche quanto si possa estendere questo conflitto. Nel frattempo dall'estero arrivano notizie preoccupanti anche dall'Egitto, dove un soldato egiziano è morto in un attacco suicida nel Sinai e 5 civili sono rimasti feriti in un'altra esplosione avvenuta su un autobus nella stessa zona. C'è stato un attentato questa mattina anche al Cairo. Veniamo alla situazione politica, che in realtà porta una coda del concertone del 1° maggio, e questa coda è relativa alle parole di Piero Pelù, del cantante Piero Pelù. Dunque, sentiamole. Il non eletto, ovvero sia il Boy Scout di Licio Gelli, deve capire che in Italia c'è un grande nemico, ma quel nemico interno si chiama disoccupazione. Si chiama corruzione, si chiama voto di scambio, si chiama mafia, si chiama 'ndrangheta e si chiama camorra. E così dunque le parole di Piero Pelù, che stanno facendo molto discutere. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Le reazioni si scatenano soprattutto su Twitter. Dal PD replica Pelù Pina Picerno, capolista europea per la circoscrizione sud, che scrive: quando la buona politica va veloce succede che pure il rock diventa lento. Comici e cantanti facciano il loro mestiere, così Alessandra Moretti, ancora Giampiero Giulietti, Pelù offende perché non vende più dischi. Ma poi sono anche molti a ricordare una vecchia storia, cioè quando Piero Pelù era direttore artistico dell'Estate Fiorentina nel 2007 con l'amministrazione Domenici, e come quell'incarico non gli venne più rinnovato quando sindaco divenne Matteo Renzi, e dunque rapporti non proprio idilliaci tra i due. Tra l'altro Renzi lo sostituì con Riccardo Ventrella, e rivendicando il fatto che quest'ultimo non percepisse stipendio, mentre quello di Pelù era di 72.000 euro l'anno, il doppio tra l'altro del suo predecessore. E intanto approfitta e si insinua invece in questa polemica Beppe Grillo, che riprende gli attacchi di Pelù e sul suo blog titola il Boy Scout di Licio Gelli, insomma l'immancabile polemica post concertone. Ed eccola qua, questa è l'immancabile polemica. Francesco Nicodemo, responsabile comunicazione del Partito Democratico, che sta partecipando ad una serie di eventi qua al Festival del Giornalismo. Oh, queste parole di Pelù dunque? Vabbè, la polemica dal concertone ci sta da tempo. Ero un ragazzino quando mi andavo a vedere pure io. Mi ricordo il famoso preservativo sopra il microfono. Forse quello è un tema un po' più serio a cui fare una battaglia. Ma vi faccio un ragionamento molto semplice. Poi, obiettivamente, un artista può dire e fare quello che vuole, ci mancherebbe altro. Poi si deve avere anche responsabilità delle cose che succedono. Io credo che chiamare 80 euro elemosina sia molto grave per le 10 milioni di famiglie che lo riceveranno e con cui 80 euro ci possono fare qualcosa, un po' di respiro, un po' di ossigeno, senza andare adesso a discutere con quante spese si possono fare, dipende, diciamo. Io per esempio ci potrei portare mio figlio 4 volte al mese in più al cinema. Certo, non è che cambia la vita, però insomma dà un po' il senso anche alcune cose che si possono fare in famiglia. Dopodiché ho visto che si è scatenata un po' in qualche web, un po' di rabbia nei confronti di questa uscita di Piero Pelù. E questo Boy Scout di Gelli? Ma insomma è una cosa, secondo me, molto grave, molto molto grave. Poi in questo paese cioè, è come diventata una sorta di la famosa Elle Foibe di Caterina Guzzanti, no? Qualsiasi cosa succede ci sta sempre Licio Gelli dietro, diciamo. È un'offesa molto grave, secondo me totalmente insomma sbagliata, e quindi se noi non andremo manco con questa non va commentata, non va nemmeno questa non va commentata. Gli 80 euro invece vanno commentati, perché secondo me chi guadagna un sacco di soldi, anche giustamente, facendo l'artista, essendo stato anche un bravo artista nel passato, ha la responsabilità di non offendere con le cose che dice la vita delle persone comuni. E 10 milioni di italiani in questo paese sono persone comuni che tutti i giorni si fanno il mazzo così, e 80 euro in più vuol dire tanto per loro. Grazie a Francesco Nicodemo, responsabile comunicazione del Partito Democratico, e anche a questo è dedicato oggi il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. In un paese senza lavoro, come ha ricordato per primo il Presidente della Repubblica, la festa del 1° maggio non poteva essere diversa da come è stata, abbastanza mesta, nervosa, prigioniera in qualche caso di vecchi schemi. Tutto molto sottotono, specchio di un paese incerto e pessimista. Che in questa cornice, cioè nel vuoto generale, il concerto di Piazza San Giovanni a Roma sia diventato il palcoscenico per un piccolo comizio politico anti-Renzi da parte di un cantante non dovrebbe essere nemmeno una notizia. Invece rischia di diventare un tema di discussione in un paese dove nessuno fa nulla, e quando qualcuno prova a fare qualcosa, magari sbagliando, magari esagerando con gli annunci prima dei fatti, salta su un altro che lo accusa di essere niente meno che un affiliato della P2. È la tecnica di Beppe Grillo che sta facendo scuola, ma almeno Grillo ha una ragione, perché deve prendere i voti alle elezioni. E così il nostro Stefano Folli. Dunque chiudiamo questo capitolo e veniamo a cose più concrete, ossia le piogge che stanno creando più di qualche problema, soprattutto in Veneto in questi giorni. Roberto Tonellato, direttore della Protezione Civile Veneta, buongiorno. Buongiorno. Allora, sappiamo che soprattutto nella Bassa, nel Padovano, ci sono stati problemi, allagamenti. Com'è la situazione? Sì, diciamo l'evento che abbiamo subito in questo periodo e che ha ulteriormente aggravato la situazione generale del dissesto che abbiamo è stato abbastanza intenso, nel senso che il giorno 28 aprile in particolare, partiamo da quella data, in una stazione meteorologica di località nel comune di Sant'Eleta, appunto a Padova, abbiamo avuto 228 mm d'acqua nella giornata, il giorno successivo altri 44, quindi nel giro di poche ore praticamente abbiamo avuto quantità d'acqua rilevanti. La situazione peraltro continua a mantenersi instabile. Ieri ovviamente c'è stata una buona finestra che ha consentito un po', diciamo, del terreno di lavorare, però oggi sono riprese diciamo, i fenomeni di tipo temporalesco con celle anche autoalimentanti, per cui ci sono ancora scrosci nelle varie aree, fra cui anche quella appunto del Basso Padovano, che è già stata colpita nei giorni precedenti, insomma. Che rischi ci sono per le prossime ore? Mi riferisco al Padovano e mi riferisco anche al Vicentino, che negli anni scorsi è stato colpito da molte alluvioni, ne abbiamo parlato spesso. Sì, diciamo che attualmente, appunto, dopo alcuni giorni di pioggia, anche altre province venete stanno avendo dei problemi. Basso nel Rodigino ci sono dei problemi, nel Veronese, nel Vicentino in questo momento, quindi la situazione più grave è stata a Padova, nel Basso Padovano in particolare, Solesino, Villa Estense, Stanghella, Vighizzolo sono i comuni maggiormente colpiti, ma comunque il fenomeno ha preso un po' diciamo tutta quell'area ovest della regione in modo particolare. Infine la porto su un altro evento di questa mattina, che è stata una valanga in Marmolada, sono state coinvolte quattro persone, ma a quanto pare tutto bene, nel senso sono salve. Sì. Lì avevamo già evidenziato anche i problemi connessi appunto alle criticità, diciamo, valanghive. Purtroppo questo periodo è un periodo che presenta, diciamo, queste caratteristiche di fenomeni convettivi che possono generare in poche ore abbondanti precipitazioni, e in montagna ci possono essere appunto fenomeni di questo tipo, quindi diciamo allerta in questo senso, massima attenzione per queste tipologie di fenomeni. E massima attenzione. Grazie Roberto Tonellato, direttore della Protezione Civile Veneta, e saluto Carlotta Guerra, che è Media Relation Manager di IKEA Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. La chiamiamo perché abbiamo appreso che ci sono delle lampade, quasi un'informazione di servizio anche per i nostri ascoltatori, che avete deciso di ritirare causa rischio di strangolamento dei bambini. Dunque, sì, faccio una precisazione, in realtà questa è una campagna di informazione che è stata rilanciata in questi giorni negli Stati Uniti e quindi è stata ripresa oggi dalla stampa italiana. Noi abbiamo fatto questa campagna di informazione già nel dicembre 2013 per tutti i nostri clienti, invitando tutti coloro che avessero acquistato una lampada IKEA Smila per bambini a verificare che questa lampada fosse fissata fuori dalla portata dei piccoli, quindi sia la lampada che il cavo, in quanto diciamo questo può portare a un rischio di sicurezza, di strangolamento per i bambini che possano utilizzare il cavo della lampada. E quindi abbiamo invitato tutti i clienti a recarsi presso i nostri negozi o a contattare il nostro servizio clienti al numero verde 800924646 per ricevere un kit che contiene sostanzialmente un'etichetta con tutte le avvertenze, le istruzioni di sicurezza e gli accessori per fissare questo cavo di questa lampada alla parete. Questa campagna di informazione è stata fatta essenzialmente anche per sensibilizzare i clienti a fare in modo che tutti i prodotti, qualsiasi prodotto che sia dotato di filo come tende o qualunque altro tipo di prodotto che ha cavi, corde o fili, può rappresentare un pericolo per i bambini. E questo si spera, Guerra, che tutti i genitori lo sappiano. Grazie e buona giornata. In chiusura di questa parte ci colleghiamo con il nostro Carlo Genta. Carlo, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Di che vuoi che parliamo? Di Juve, no? Vuoi parlare della Juventus e del quello che è secondo me il secondo eurofallimento stagionale per la Juventus, perché è il caso di chiamare le cose con il loro nome. Ci sono in questo momento tre hashtag su Twitter, sì. Oltre a quello del concerto del primo maggio c'è uno Sficati, uno Juve Benfica e un Godo, che immagino che sia riferito a quello. Guarda, io sono, l'ho sempre detto, estremamente favorevole al tifo contro, ai gufi, al gufismo e a tutte queste cose, perché è così nel calcio ed è giusto che sia così. Poi c'è anche chi preferiva vedere la Juventus in finale sul suo campo magari perdere, questi sono i gufi estremi. Però al di là di tutto c'è questo 0-0 con il Benfica dopo l'1-2 dell'andata, che non possiamo chiamarlo con un'altra parola se non fallimento, perché la Juventus avrebbe avuto la finale in casa, avrebbe bisogno di una dimensione europea dopo aver stradominato per 3 stagioni il campionato italiano, tutte cose rimandate a data da destinarsi, perché è così. Lasciamo stare il ranking UEFA, il Portogallo ci ha superato, però questi sono discorsi collaterali, importanti certamente, ma collaterali. Resta questo 0-0, resta questa eliminazione che Conte ha provato a giustificare in mille modi, con i pochi minuti giocati, con il tempo effettivo, con molte altre cose. In realtà insomma, per questa squadra che, ripeto, sta per vincere il suo terzo scudetto, questa è una sconfitta molto importante e molto pesante, che potrebbe portare a mettere in discussione diverse cose, compresa la panchina di Antonio Conte. Vedremo cosa succederà e ne potranno parlare come sempre gli ascoltatori in tutti i convocati a partire dalle 14 con Carlo Gente e Pierluigi Pardo. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Kiev lancia l'offensiva nell'est dell'Ucraina, ci sono 2 vittime, 2 elicotteri abbattuti a quanto pare, saltati gli accordi di Ginevra, dice Putin. Immancabile la polemica del giorno dopo sul concerto del 1° maggio, questa volta tocca a Piero Pelù che attacca Renzi. Per le piogge allerta in gran parte del nord Italia, in particolare nel nord-est, allagamenti in provincia di Padova, valanghe in Marmolada, 4 persone estratte vive. Farmaci antitumore contraffatti, l'agenzia del farmaco lancia l'allarme, dietro dice c'è la camorra, ne parleremo tra un attimo. Ma adesso veniamo a fare un punto proprio sulla situazione in Ucraina e non solo. Saluto Ugo Tramballi, collega del Sole 24 Ore, inviato del Sole 24 Ore, che è con noi qua a Perugia. Effetto giorno oggi va in onda da Perugia, dove si svolge il Festival Internazionale del Giornalismo. Allora Ugo, con te l'ultima volta che ci siamo ritrovati a parlare di Ucraina abbiamo commentato esattamente gli accordi di Ginevra, no, dicendo che si doveva trovare un accordo, si doveva trovare il modo, no, di mettere insieme le esigenze di tutti. Si è trovato, ma a quanto pare, come dice Putin, è effettivamente saltato tutto. Che rischi ci sono secondo te? Buongiorno prima di tutto. Beh, certo, basta vedere che è difficile che dei separatisti in qualsiasi area geografica del mondo possano abbattere degli elicotteri militari senza che qualcuno abbia dato i missili. I missili, quei missili ce li hanno i russi, quindi mi pare che lì la presenza russa sul campo di battaglia sia un dato di fatto, anche se sono altri che sparano questi missili. Detto questo, la soluzione era quella appunto di Ginevra. Ginevra aveva già fatto prevalere la diplomazia, c'era una soluzione negoziale, e se c'è qualcuno che non l'ha rispettata è appunto Yeltsin, a partire dal giorno dopo ha smesso di rispettare le risoluzioni emerse, il compromesso emerso da Ginevra. E naturalmente, certo, Kiev non ha rispettato il patto riguardo allo smantellamento di quel partito fascista e antisemita, ma come dire, ho vissuto in Unione Sovietica, ho vissuto in Russia, so che dall'altra parte, quanto a fascisti e antisemiti, la Russia ne ha da vendere, quindi mi pare che non ci sia una grande differenza. Il problema è che Putin non ha rispettato gli accordi che lui stesso aveva accettato a Ginevra. Vorrei capire da te, Ugo, quale può essere la via d'uscita a questo punto alla situazione ucraina, perché i timori che anche il conflitto si estenda e che debba essere coinvolta la comunità internazionale, per cui la NATO, possono essere forti a questo punto. Beh sì, è fatale, perché noi eravamo convinti che dopo la prima guerra mondiale, si celebrano i 100 anni dell'inizio del più tragico dei conflitti, dopo la seconda guerra mondiale, dopo la guerra fredda, credevamo che in Europa avessimo una struttura di sicurezza collettiva ormai consolidata. È bastato un piccolo Napoleone, un piccolo zar, perché Stalin non è Putin, Putin credo che guardi più alla Russia zarista che alla Russia sovietica, per rimettere in discussione tutto. La soluzione, ripeto, è Ginevra. Perché? Perché Ginevra aveva riconosciuto l'unicità dell'Ucraina. Noi non, quando appunto critichiamo la Russia non possiamo però dimenticare che esiste una, alcune regioni, una maggioranza di popolazioni di lingua russa, esiste un legame storico, antico dalla Russia di Kiev, cioè la Russia nasce dalla Russia di Kiev, quindi c'è un legame storico profondissimo, quindi l'unicità dell'Ucraina presuppone che l'Ucraina diventi comunque un paese neutrale, non un paese nella NATO, non un paese nell'alleanza militare con la Russia, che vengano riconosciute le autonomie, quantomeno per cominciare non dico l'indipendenza, ma per cominciare le autonomie delle popolazioni di lingua russa. Poi non è detto che col tempo si possa anche arrivare a una separazione territoriale come successe fra Cechia e Slovacchia, però non attraverso la brutalità che da vecchia politica zarista o stalinista che Putin mette in campo. Senti Ugo, soprattutto all'inizio della crisi in Ucraina c'è chi, il paragone l'hai riportato alla mente tu, ha pensato che quello che stava avvenendo là potesse essere la nuova Sarajevo, cioè l'attentato che portò allo scoppio, all'esplosione della prima guerra mondiale. Secondo te che possibilità ci sono appunto di estensione del conflitto anche a questo pezzo d'Europa che finora non è stato coinvolto? No, infatti altissime, io credo che più della guerra fredda il paragone sia appunto la grande crisi di luglio del 1914, dove appunto tutte le grandi potenze europee camminarono come dei sonnambuli verso il baratro senza essere capaci di fermare quello che avevano messo in moto, perché per fare la guerra fredda occorrono due superpotenze come i tempi della guerra fredda. La Russia non è più una superpotenza capace di contrastare, di opporsi, di offrire un modello di vita sociale, economico, politico, culturale diverso da quello dei tempi della guerra fredda, ma il 1914 sì, a dispetto di quello che credevamo del quadro di sicurezza collettiva che avevamo creato, la NATO, l'OSCE, l'Unione Europea, i rapporti stretti con la Russia attraverso l'OSCE, invece tutto questo non è servito. Assomigliamo a una situazione del 1914. Il problema è che il futuro è nelle nostre mani, cioè è di chi, come in Europa, negli Stati Uniti, guarda il futuro, ma il presente è nelle mani di Putin, perché Putin non ha un futuro, perché la Russia economicamente è un paese che va verso tolto. Quando cominceranno a calare il prezzo del barile, la Russia entrerà in una spaventosa recessione, però il presente è nelle mani di Putin, perché Putin è determinato a fare qualsiasi cosa, compreso l'intervento militare, cosa che noi in Europa e ancor meno forse la riluttante superpotenza americana siamo intenzionati a fare. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Io per chiudere ti voglio portare su un altro argomento di attualità internazionale, ossia il fatto che stiamo parlando moltissimo naturalmente delle elezioni che più ci riguardano direttamente, ossia le elezioni europee, ma si sta avviando alle elezioni anche l'Egitto. E oggi ci sono stati due attentati, o tre addirittura, due nel Sinai e uno al Cairo. Che prospettiva vedi? Un progressivo avvicinamento con un intensificarsi della violenza armata? Beh, temo di sì, temo che il terrorismo con le elezioni di oggi sia entrato in campagna elettorale, una campagna elettorale che altrimenti non ha storia, perché al-Sisi sarà eletto, da chi andrà a votare sarà eletto a suffragio universale, sarà importante vedere la percentuale dei votanti più della percentuale che conquisterà al-Sisi, però certo il terrorismo sarà molto presente, temo, e credo che una buona parte di responsabilità ce l'abbia il regime egiziano, trasformando i Fratelli Musulmani da un movimento che sicuramente aveva commesso gravissimi errori politici in un movimento di tutti i terroristi. E l'esclusione di togliere uno spazio politico democratico ai Fratelli Musulmani fatalmente crea le condizioni perché l'estremismo islamista, qaedista, salafita trovi appunto il fiume nel quale nuotare, per dirla alla Mao Zedong. Grazie a Ugo Tramballi, collega del Sole 24 Ore, inviato del Sole 24 Ore, per essere stato con noi qua nei nostri studi al Festival del Giornalismo di Perugia. E saluto Domenico Di Giorgio, buongiorno. Buongiorno. È dirigente dell'unità di prevenzione della contraffazione dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, che è stato intervistato, Di Giorgio, dal Wall Street Journal, se non erro, raccontando delle cose interessanti in merito appunto alla contraffazione per quanto riguarda soprattutto i farmaci antitumorali, facendoci capire, dandoci l'idea che ci possa essere dietro la criminalità organizzata, in particolare la camorra. Ci può dare qualche dettaglio in più? Sì, il caso di cui abbiamo parlato in questi giorni, che è stato anche oggetto di altre comunicazioni da parte di AIFA, NAS e Procura, è quello della falsificazione di documentazione di farmaci antitumorali rubati nei nostri ospedali e rivenduti illegalmente su mercati esteri. Si tratta di un tipo di falsificazione che fa parte di un quadro più ampio di crimine farmaceutico, dove ormai da anni sappiamo che le varie criminalità organizzate si muovono. Si tratta di criminalità organizzata di livello internazionale, quindi non si può dire quale sia l'organizzazione, però nel caso specifico siamo in presenza di una struttura in grado di commissionare furti ai nostri ospedali, ripulire il prodotto rubato attraverso fatturazioni di società estere dell'Est Europa e poi di immettere il prodotto così ribattezzato sui principali mercati europei che non hanno sistemi di sicurezza. Ecco, Di Giorgio, lei dice ripulito, ribattezzato, ma a volte anche adulterato. Il caso specifico nasce da una segnalazione su un farmaco che effettivamente era stato anche manomesso. L'AIFA insieme ai NAS, Farmindustria, Assoram, aveva messo su un sistema d'allarme perché il problema dei furti di farmaci era diventato sempre più grave, quindi avevamo fatto in pratica una struttura informatica di blacklist dei prodotti che ci ha permesso, con l'aiuto anche del Ministero della Salute, di avere dati che ci permettessero di controllare e di verificare qualsiasi segnalazione che arrivasse dall'estero nel caso di farmaci che rubati in Italia riemergessero su qualche altro mercato. Il segnale arrivato era su un farmaco che effettivamente aveva subito anche delle manomissioni, cioè un farmaco che è arrivato sul mercato tedesco in condizioni decisamente diverse da quelle con cui era partito o sarebbe partito se fosse arrivato dal vero produttore. In pratica si trattava di un flacone che doveva contenere una polvere e invece il prodotto che hanno ricevuto i tedeschi aveva addirittura del liquido al suo interno. Probabilmente, per quello che abbiamo ricostruito fino adesso, si trattava di un prodotto rubato da uno ospedale in forma già allestita, verosimilmente, cioè era pronto per la somministrazione. Quando è stato rubato è stato malamente ritappato e poi immesso in questo canale. Canale che rappresenta comunque una preoccupazione, perché è un canale in cui, sfruttando la permeabilità delle altre reti di distribuzione europee e dei farmaci che non hanno i nostri sistemi di sicurezza, si possono immettere farmaci di ogni tipo, e l'anno scorso avevamo avuto invece casi di contraffazione in Europa, contraffazione vera e propria, cioè di prodotti che imitavano i marchi di farmaci famosi. Era stato fermato un carico di Xanax in Svizzera e uno di Pegasus, un altro antitumorale, in Germania. Senta Di Giorgio, l'ultima domanda che le voglio fare è capire l'estensione di questo fenomeno, cioè vi siete riusciti a fare un'idea di quanto in percentuale rispetto al mercato legale ci sia questo mercato illegale? Beh, parliamo di una percentuale bassa rispetto al mercato legale. Il mercato infiltrabile è solo quello che non è pienamente controllato, il canale che abbiamo scoperto non è percentualmente rilevante, però se andiamo a esplodere dalla percentuale ai numeri effettivi, parliamo di un giro d'affari di decine e decine di milioni di euro che sono transitati illegalmente verso le organizzazioni criminali. Grazie a Domenico Di Giorgio, dirigente dell'unità di prevenzione della contraffazione dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Una pausa, tra un attimo con la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Kiev ha lanciato un'offensiva nell'est dell'Ucraina, ci sono due vittime, elicotteri abbattuti. Di poco fa un comunicato del Ministero degli Esteri russo che dice: in questo modo si porta l'Ucraina alla catastrofe. La polemica del giorno dopo sul concerto del 1° maggio, questa volta tocca a Piero Pelù, che attacca Renzi e parla di elemosina per gli 80 euro. Il cantante ritrattato poco fa tramite un post su Facebook dicendo: non volevo offendere nessuno. Per le piogge allerta in gran parte del nord Italia, allagamenti in provincia di Padova e una valanga in Marmolada, 4 persone estratte vive. È il momento della borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Vanno bene i mercati oggi? Ma Soprattutto il FTSE MIB va abbastanza bene, sale dello 0,63%, più caute le altre borse, con Londra e Madrid poco variate, in leggero rialzo, Parigi e Francoforte in leggero ribasso. C'è cautela in attesa del dato sul mercato del lavoro statunitense, che è in arrivo nel primo pomeriggio. Nel frattempo beneficiamo di un nuovo calo dello spread per quanto riguarda l'Italia, insomma siamo scesi questa mattina sotto i 160 punti. Vorrei capire da te, Isabella, quanto stanno influenzando i mercati le vicende che riguardano le aziende farmaceutiche, perché questa mattina è arrivata l'aumento dell'offerta di Pfizer su AstraZeneca, 106,5 miliardi di dollari, e la risposta di AstraZeneca, che ha rigettato la nuova offerta ritenendola inadeguata. Sì, le novità sul fronte farmaceutico sostengono tutto il settore in Europa, che è in rialzo di uno 0,4% complessivamente. AstraZeneca comunque cede lo 0,6%, questo malgrado il rialzo dell'offerta di Pfizer. Altri titoli da segnalare? Ma per quanto riguarda Piazza Affari va bene la Popolare di Milano, fa più 5% dopo aver annunciato i dettagli sull'aumento di capitale, con le azioni che saranno emesse a 0,43 euro, con uno sconto considerato adeguato dal mercato. Va molto bene anche Azimut, più 3,4%, e bene anche Fiat, più 3% dopo i dati sulle vendite di Chrysler negli Stati Uniti, salite del 14% ad aprile. Bene anche Saipem, che avanza del 2%, questo dopo il nuovo contratto da 1,8 miliardi di dollari in Azerbaigian. E grazie a Isabella Tasso di Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E dedichiamo questa seconda parte della trasmissione al primo maggio, se vogliamo, ma trattando un fatto particolare. Ricorrono i 6 mesi, o meglio, sono ricorsi ieri 6 mesi dall'incendio nel quale morirono 7 operai cinesi a Prato. Ne parleremo tra un attimo, ma prima parliamo più in generale del primo maggio, oggi come ogni venerdì con il nostro Daniele Biacchessi. C'era un tempo che al concertone del primo maggio a Roma potevi perfino ascoltare le prove pomeridiane di Sting in acustico, sentirlo suonare Roxanne o Message in a Bottle. C'era anche un tempo in cui a San Giovanni Elio e le Storie Tese o i Gang venivano censurati per le loro accuse al sistema politico dei primi degli anni 90, quello poi spazzato via dalle inchieste di Mani Pulite. Erano i tempi in cui le esibizioni dei Litfiba di Vasco Rossi erano dei grandi eventi televisivi. Ed era anche un tempo in cui quel concertone non era solo lo strumento promozionale delle case discografiche, un grande affare di diritti, ma rappresentava l'esatta fotografia della musica italiana, una vetrina per ciò che di meglio girava a livello internazionale. Oggi San Giovanni è il luogo dove il primo maggio regna la confusione assoluta. Bandiere estinte di Che Guevara, stendardi di Cuba che sfilano accanto alle bandiere della Sardegna autonomista, poi bandane, bandiere rosse, sorrisi, caldo, pianti. Poi ci sono i giovani, i veri assenti della festa del lavoro, perché in realtà non avrebbero proprio nulla da festeggiare, perché il lavoro, stando agli ultimi dati Istat, per loro non c'è. Quei giovani comunque, vedendo i loro volti postati su Facebook e Twitter, sembrano felici, incantati, spensierati. Non hanno lavoro e non per colpa loro. Non hanno più miti da inseguire, nemmeno quelle finte star che corrono per ore davanti al piccolo schermo. Ma loro sorridono, ingenui, senza una musica che li possa identificare, senza neppure chi li possa rappresentare. Perché, e qui sembra un paradosso, nella festa del lavoro che non c'è, i sindacati, che sono anche gli organizzatori di quel concerto, risultano troppo lontani dai loro sogni. Continuiamo a parlare di lavoro. Saluto Silvia Pieraccini, collega del Sole 24 Ore, autrice de L'assedio cinese, un libro proprio dedicato anche alle vicende di Prato, la prima edizione del 2008, e già si raccontava tutto quello che succede e che succedeva in quell'area. Silvia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ieri, come dicevamo, ricorrevano i 6 mesi da quella tragedia, 7 operai cinesi morti nel rogo di una fabbrica, quelle che vengono definite fabbriche dormitorio, dove appunto spesso si lavora e si dorme anche. Che cosa è cambiato in questi 6 mesi, Silvia? Sì, In realtà sono 5 mesi perché il rogo è avvenuto il 1° dicembre ed è stato, diciamo così, l'epilogo di una situazione che a Prato si trascina davvero da almeno 15 anni ed è quella di avere sostanzialmente un altro distretto industriale. Dico altro perché Prato storicamente è sede di un grande e importante distretto tessile che quindi produce filati e tessuti, accanto al quale si è venuto formando un distretto cinese di aziende che producono invece abbigliamento, capi di abbigliamento di bassa qualità e basso costo. E in tutti questi anni questo distretto cinese è cresciuto sullo sfruttamento del lavoro e sull'evasione fiscale e contributiva. Sfruttamento del lavoro a questo significa punto, poi arrivare Silvia, al rogo Silvia, del 1° dicembre. Esatto. Silvia, in questi 5 mesi appunto è cambiato qualcosa? Ci sono stati maggiori controlli, una maggiore attenzione a questo territorio, all'uscita dall'illegalità appunto di un territorio che non sembra quasi più territorio italiano? No, non sembra più quasi territorio italiano e mi permetto di dire non sembra più territorio toscano, perché la Toscana nel mondo è sicuramente conosciuta e famosa per il bel vivere, il bel paesaggio e diciamo le buone regole. Questo è veramente un vulnus che si porta dentro e che sarà difficile da estirpare. L'attenzione dal 1° dicembre scorso è sicuramente aumentata, perché la morte di 7 operai bruciati vivi all'interno di una fabbrica dormitorio non poteva evidentemente passare inosservata. Si è mosso addirittura il Presidente della Repubblica con un appello contro l'insostenibile appunto condizioni di vita e di lavoro. E che cosa è cambiato materialmente? Ancora non molto, perché non è facile, avendo 4.000 aziende manifatturiere cinesi che in gran parte operano in condizioni di illegalità, non è affatto facile debellare questa illegalità che ormai è molto radicata e ha messo in piedi, come è normale, una serie di sistemi e di metodi per continuare a viaggiare, a deludere la legalità appunto. Esattamente. Quindi Alessandro, ci sono fatti controlli, qualche controllo in più c'è stato indubbiamente, si è mosso qualche forza dell'ordine che fino a oggi era stata un po', diciamo, latitante, però concretamente non possiamo Si è mosso poco. Saluto Alessandro Fabrizi della CGIL di Prato. Buongiorno, salve. Buongiorno, buongiorno a Silvia. Le giro la stessa domanda, se è cambiato qualcosa in questi 5 mesi. Io riterrei di sì, sarebbe incomprensibile. Ora chiedo scusa perché ho un riverbero della mia voce. Sarebbe incomprensibile se non fosse cambiato, visto il costo umano di quella tragedia, ecco, quindi ritengo che il clima, la sensibilità generale, l'attenzionamento delle istituzioni anche nazionali in qualche maniera abbia subito uno scarto. Prova ne è che siamo stati ricevuti dal Comitato Schengen a Roma, la commissione bicamerale che appunto sta svolgendo un'indagine conoscitiva sull'utilizzo della manodopera immigrata nel sistema industriale. E naturalmente da questo punto di vista Prato è un territorio, un perimetro che deve essere necessariamente attenzionato, così come a livello di istituzione regionale mi sembra che ci sia una volontà nuova, se considero i neo ispettori del servizio di vigilanza appunto dell'ANL che sono stati reclutati dalla regione toscana dentro a un progetto che avrà valenza triennale e che avrà appunto la funzione e l'obiettivo centrale di aumentare l'attività generale di ispezione soprattutto nelle aziende cinesi, fino al punto di definire degli obiettivi che prevedono il raggiungimento di 3.000 ispezioni annuali. Dopodiché